Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Lo sapete qual è stato quest'anno il prodotto più rubato nei negozi e nei supermercati? Lo scopriremo tra pochissimo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere parliamo di furti nel retail, un fenomeno in crescita che alla fine pesa sulle tasche di tutti noi. Focus sui trend invece dedicato alla nuova merce rara per eccellenza, il tempo. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana. Arriva l'ABC del consumatore, banca dati sui diritti dei consumatori consultabile gratuitamente online attraverso il sito adiconsum.it. Il progetto è frutto della collaborazione tra l'Associazione dei consumatori e il Ministero del Welfare. Nasce emporioecologico.it, nuova vetrina web per lo shopping biologico, riciclato e sostenibile. Un unico negozio dove trovare di tutto, dal cibo agli oggetti di design, proprio come negli empori di provincia. Tra le nuove figure professionali create dalla crisi spiccano le butta dentro, signore della buona società assoldate da case di moda e grandi boutique per coinvolgere le amiche in pomeriggi di shopping al 50%. Siamo solo a novembre, sottolineano nell'ambiente, ma le collezioni autunno-inverno giacciono intonse su stendini e scaffali. Diventerà la Notting Hill di Parigi o l'equivalente delle famose Ramblas, centro della Movida di Barcellona. Stiamo parlando di Pigalle, storico quartiere popolare a luci rosse della capitale francese. Sexy shop e nightclub vengono via via sostituiti da locali e negozi di tendenza. Si chiama Biosphere l'innovativo sistema di home farming progettato da Philips. Un ecosistema completamente autosufficiente, delle dimensioni di una libreria, per coltivare verdura e frutta in un vero e proprio orto domestico. Utilizza l'energia prodotta dai rifiuti organici domestici. La borsa della spesa. Perdono il primato le lamette da barba. Quest'anno il prodotto più rubato nei negozi e nei supermercati sono gli alimentari freschi. Ebbene sì, beni di prima necessità, carne, pesce, salumi e formaggi. La sorpresa arriva dal consueto barometro globale dei furti nel retail, lo studio condotto dal Center for Retail Research di Nottingham e presentato in Italia da Checkpoint Systems, azienda leader nei sistemi per la gestione del le differenze inventariali. Crescono i furti nei negozi e nei supermercati. L'anno della crisi registra il più alto tasso di crescita degli ultimi anni, il 6% circa a livello mondiale. Tradotto in cifre, ciò significa oltre 84 miliardi di euro, questo l'ammontare dei furti nel mondo, quasi l'1,5% del fatturato globale. In Italia le perdite da mano lesta si avvicinano ai 4 miliardi di euro, l'1,3% del fatturato, e registrano quest'anno uno dei tassi di crescita più alti, il 6,2%, contro una media europea del 4,7%, 200 milioni di euro in più rispetto al 2008. Davanti all'Italia nella classifica europea ci sono solo Slovacchia, più 9,8%, Repubbliche Baltiche, Lettonia, Estonia, Lituania, più 6,7%, Repubblica Ceca, più 6,5% e Turchia, più 6,4%. Unici paesi virtuosi dove i furti sono in calo, Austria e Portogallo. Da noi nella classifica dei prodotti più rubati spiccano al primo posto gli alimentari freschi, come carne, pesce, salumi e latticini, più 10% rispetto al 2008, seguiti poi dagli articoli per la cura e l'igiene del corpo e dai vini e superalcolici. A seguire, pile e batterie ricaricabili, più 17%, e capi di abbigliamento e accessori, che nel mondo sono invece la prima voce. E a pagare alla fine sono i consumatori, che si accollano una specie di tassa invisibile, 190 euro a famiglia sullo scontrino annuo della spesa, perché i negozianti scaricano il danno sui prezzi di vendita. Nella classifica mondiale l'Italia appare al primo posto nella percentuale di negozianti che dichiarano di aver subito un incremento dei furti a causa della crisi. Sono oltre il 54% degli interpellati. Ma in che modo la crisi ha inciso sul fenomeno? Lo abbiamo chiesto ad un esperto di retailing, Sandro Castaldo, direttore area marketing della Sda Bocconi. Nel momento in cui il cliente devi difendere il proprio stile di vita, è chiaro che mette in atto dei comportamenti talvolta anche non leciti, come quello di sottrarre furtivamente la merce dai punti di vendita. Quindi certamente c'è questo elemento collegato al fatto che probabilmente vengono più frequentati in un periodo di recessione come questa dei punti di vendita che sono meno preparati alla prevenzione dei furti. Quindi probabilmente questi due effetti congiunti creano chiaramente questo risultato. Sono cifre veramente importanti. Tenga conto che nel mondo del retail, seppur i fatturati sono molto molto elevati, gli utili netti alla fine, diciamo, del conto economico, l'ultima riga, così come si dice, spesso non supera l'1% o comunque è intorno all'1%. Quindi significherebbe, prevenendo del tutto i furti, raddoppiare la profittabilità delle imprese commerciali o, d'altra parte, scaricare, diciamo, queste efficienze su prezzi più convenienti e quindi su più competitività per le imprese. Mettere sotto chiave i prodotti non serve, non vengono rubati, è vero, ma nemmeno venduti. Il futuro sta nelle cosiddette etichette elettroniche, ci dice Pierpaolo Lambrini, direttore vendite Checkpoint Systems Italia. Cerca assolutamente di prestare la massima attenzione a quello che è l'equilibrio, quindi sì, proteggere ma non blindare, sempre avvicinare il prodotto al consumatore con soluzioni, ad esempio come può essere la protezione della fonte, quindi l'integrazione del circuito all'interno del packaging o del prodotto, o comunque sistemi che faccia sì che il cliente possa guardare, toccare il prodotto stesso. Il progetto di protezione integrata si avvicinava sempre più a quello che è l'identificazione anche del prodotto, quindi RFID. Quindi il passaggio, diciamo, naturale è sicuramente protezione della fonte e quindi poi identificazione del prodotto stesso. Ora con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, parliamo di elettrodomestici e consumo energetico, non più solo la classe sul cartellino del prezzo. Nell'elettronica di consumo e segnatamente in Media Market, con le insegne Saturn e Media World, è in atto una vera e propria rivoluzione. Uso e consumo è un nuovo servizio di Media Market per l'acquisto di grandi elettrodomestici del bianco, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi. Attraverso la collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Brescia, ha progettato uno strumento per il calcolo del costo medio annuo di impiego del prodotto. In pratica, per ogni elettrodomestico verrà esposto, oltre al prezzo di vendita, il costo medio annuo di impiego e un'integrazione del cartellino prezzo che indicherà al cliente la spesa media annua per l'utilizzo costante di quel bene. Fino a ieri il consumatore aveva solo la possibilità di confrontare il cartellino tecnico del prodotto. Oggi, invece, a parità di condizioni di utilizzo, può conoscere perfettamente quanto un elettrodomestico può costare durante tutto l'anno, confrontarlo con altri modelli e altri brand, avere non solo una percezione ma la corretta quantificazione dell'impatto ambientale. È importante sottolineare che la comparazione tra più prodotti può anche essere effettuata su quelli vecchi. Molti produttori di frigoriferi o lavatrici storceranno il naso, ma parteciperanno lo stesso all'iniziativa di Media World e di Saturn, visto che queste due insegne detengono ormai il 15% del mercato e sono riconosciute come le più innovative. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Anche i beni immateriali possono diventare merce di consumo, fungono da catalizzatori, per così dire, di nuovi prodotti e nuovi servizi che riescono a intercettare le trasformazioni delle abitudini, degli stili di vita, delle scelte dei consumatori. Nuovi oggetti del desiderio oggi sono ad esempio il silenzio, la memoria, cui abbiamo già dedicato due puntate ad hoc, ma in testa all'elenco c'è sicuramente il tempo, nuova merce rara e nuovo parametro di valutazione nei consumi. Patrizia. Sì, dicevi il tempo nuova merce rara, sicuramente vero, tant'è che il tempo come nuovo lusso è una locuzione che ormai è diventata una specie di mantra sociale. Oggi ci concentriamo sul tempo come valore, nuovo valore nei consumi. Vediamo che cosa significa, partendo sempre dal consumatore, cioè dall'individuo, siamo un po' tutti presentisti, diciamo così. Viviamo nel qui e ora, in un presente, in un adesso assoluto, e questo spiega per esempio il successo nel retailing dei temporary store, cioè dei negozi temporanei, che siano stanziali o itineranti, cioè quei negozi improvvisi, estemporanei, che appaiono, scompaiono, che adesso ci sono e che poi scadono, e quindi o compri in questo momento o mai più. Siamo quindi presentisti, ma anche sempre in movimento, quindi anche nella dimensione spaziale siamo sempre in un qui e in un altrove. Mentre ci spostiamo, usiamo tutti i device elettronici di cui disponiamo, quindi gli smartphone, i computer, i lettori, eccetera, per lavorare, informarci, giocare, comprare, frequentare amici, divertirci. Quindi le dotazioni tecnologiche combinate con gli stili di vita e di mobilità contemporanei, stili di vita che sono molto digitali, digitalizzati, ci fanno vivere un nuovo tempo, che possiamo dire un tempo fisarmonica, cioè ce lo moduliamo un po' come vogliamo, oppure, parafrasando più o meno propriamente Bruce Sterling, un tempo augmented, aumentato, cioè addensato. Allora, non è il caso del nostro paese, ahimè, però il tempo, per esempio, nell'esperienza quotidiana di chi vive in città davvero digitali come Londra, con rete wireless sempre e ovunque, grazie alla banda larga mobile molto diffusa, o Stoccolma, è davvero ed è già una diversa esperienza del tempo. Vediamo un po' com'è questo tempo delle nostre giornate contemporanee. Dicevamo, è stratificato perché siamo perennemente in una modalità multitasking, cioè facciamo più cose insieme, usiamo, in altre parole, in maniera ipertestuale il tempo, cioè riusciamo a mandare una mail, intanto ascoltiamo musica, scarichiamo anche un video, sincronizziamo rubriche da due device elettronici diversi, seguiamo come follower di Twitter i locali preferiti, intanto capiamo cosa c'è in programma la sera, eccetera. Tutto questo ci consente di parlare di un vero e proprio consumatore real time, che è anche e sempre più ubiquo, proprio perché è sempre connesso. Quindi in metropolitana, al bar, in ufficio, per strada, si riesce ad andare, certo virtualmente, però lo si fa in altri luoghi. Si acquista, si legge, si visita un museo, si fanno molte cose stando in uno stesso luogo o spostandosi. Come abbiamo detto più volte, le serie TV hanno il pregio di individuare in anticipo il cambiamento, sono veri e propri indicatori delle nuove tendenze. Anche Il Tempo ha la sua serie rappresentativa e, appena sbarcata in Italia, si tratta di Flash Forward. Viene definita l'erede di Lost. Eccone un assaggio. E se un giorno il mondo intero si fermasse per 2 minuti e 17 secondi? E se in quegli attimi tutti vedessero il loro futuro? Anche le nuove frontiere della neuroscienza indagano nelle pieghe tra presente e futuro, interpretano il tempo non come un fiume che scorre incessantemente, ma come una costruzione del cervello, che come tale può essere manipolata a livello sperimentale. Comprendere come il nostro cervello percepisca il tempo, dicono questi studi, potrebbe aiutare nella cura di alcuni disturbi cognitivi, oppure di malattie come il Parkinson, l'Alzheimer. Patrizia, tutto ciò è molto affascinante. Le scoperte neuroscientifiche sono davvero sempre affascinanti, perché trovano i fondamenti biologici, cioè le tracce fisiche cerebrali che spiegano la nostra mente. In questo caso, parlando del tempo, la nostra mente è una mente che sempre più agisce così, come dicevamo, in real time, in termini di whenever, cioè in ogni istante, sempre, e wherever, in qualsiasi posto, ovunque. Quindi con un'idea anche diversa, che va cambiando su attesa, il concetto di tardi, di ritardo, eccetera, diventando sempre più instant, cioè facendo sempre più esperienze istantanee e moltiplicate. Per esempio, nella comunicazione interpersonale si produce un annullamento dei differimenti temporali e spaziali, cioè i tempi dello scambio, sia professionale che privato, intermediati dalla tecnologia, non prevedono più quello spostamento, diciamo, fisiologico nel tempo della risposta dell'altro. Quindi non solo quando siamo in chat, chat, ma ormai anche quando mandiamo una mail o peggio ancora un SMS, dopo un minuto ci stiamo già chiedendo perché mai l'altro non stia rispondendo. L'equazione anche mentale, cognitiva del nuovo tempo diventa un po' questa. Facciamo sempre più cose in sempre minore tempo, perché appunto la tecnologia ci consente di fare questo, ne facciamo numericamente di più dentro un tempo appunto flessibile, veloce, liquido. Segnalo, a proposito, avendo citato liquido, l'uscita recente di Vite di corsa di Zygmunt Bauman, proprio sulle esperienze temporali momentanee. E nel libro l'autore, in traduzione, parla di tempo non ciclico, non lineare, ma puntillistico, cioè polverizzato. Quindi dentro questo tempo, diciamo, a pois, che forse farà anche un effetto jet lag a furia di entrare e uscire da queste bolle, da questi puntini che sono dei warp, no? Delle pieghe spazio-tempo, un dato interessante riguarda per esempio l'impiego del tempo libero degli italiani, posto che i tempi di lavoro e quelli lavorativi siano profondamente mescolati, ma dai 15 anni in su, quindi compresi gli ultra settantenni, gli italiani dichiarano di passare in media 42 minuti di quello che considerano il loro tempo libero su internet. Per capire la portata di questo discorso su stile di vita, tempo e mobilità, basta guardare il contatore dei social media. Basta digitare social media counter ed esce esattamente questo. Un contatore che ci rappresenta visivamente chi fa cosa su quali social media. È diviso in tre sezioni, abbiamo social media mobile, cioè cellulari, e videogiochi. Quindi si vede lo scorrere dei secondi e il numero precisissimo delle persone che in quelli stanno facendo qualcosa. Per esempio, 12.346 persone che stanno pubblicando una foto, che in un giorno hanno guardato un video su YouTube, e qui passiamo a cifre che sono 1.867.721, eccetera. Quindi nuovi accessi, numero di console vendute, di quale casa, di quale tipologia, ore spese nei giochi comunitari online. Parlando di tempo, non si può non parlare di orologi, quindi chiuderei ricordando lo Swatch Internet Time, una innovazione clamorosa nella modalità di misurazione del tempo, ma anche della sua stessa concezione. È un sistema decimale alternativo a minuti, ore, secondi, eccetera, molto complesso, anche controverso, tra l'altro usato raramente, che adesso non sto a spiegare, ma lo segnalavo perché è molto interessante nel concept, perché bypassando i fusi orari diventa l'ora di internet, cioè la stessa ora per tutti. Quindi quando è l'ora 875 bits, l'unità di misura nuova, a New York, lo è anche nel resto del mondo, che a quel punto diventa davvero piatto. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Tokyo su tempo, consumi e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Elena Marinoni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, oggi vi racconto di un'originale applicazione per iPhone sviluppata da un'agenzia giapponese di comunicazione, la Beijing Tokai, il cui nome significa belle ragazze orologio. Trattasi di una sorta di orologio digitale reincarnato, un cortocircuito tra First e Second Life. Come funziona? Basta accedere al sito beijing.com. Qui ogni minuto che passa risulta letteralmente incarnato nell'immagine di una bella e giovane ragazza giapponese, fotografata in posa con una lavagnetta in mano. Sulla lavagnetta è scritto con un gessetto l'ora esatta. Le istantanee si susseguono in un flusso continuo, scandiscono i minuti associandoli appunto ai volti e ai corpi di ragazze carine immortalate in giro per le strade dei quartieri di Shibuya e Harajuku. Questa applicazione te ne garantisce 1440 al giorno che dicono l'ora esatta. Un colpo di fulmine via l'altro, insomma. L'applicazione consente anche di zoomare sui dettagli, impostare una ragazza per la sveglia e soprattutto salvare quelle che colpiscono maggiormente la propria immaginazione. Per chi non se la sentisse, infatti, di aspettare ogni volta 24 ore per rivedere per un solo fugace minuto la donna dei propri sogni, c'è sempre la possibilità di liberare la propria amata da quel presente assoluto e, salvandola nella memoria del proprio telefono, consegnarla all'eternità. Grazie Elena. Patrizia, come sempre, doppia lettura per fenomeni di questo genere c'è anche un risvolto in qualche modo inquietante. Comunque, in chiusura, gioco forza ipotizzare sempre di più il tempo come valore aggiunto nei consumi, è così? Sì, mi viene in mente un takeaway che si chiama Slow Food di Atene, si chiama Katsorbos, che punta sulla doppia velocità dei tempi di consegna del souvlaki, lo spiedino, per fornire insieme al cibo appunto un valore aggiunto del tempo maggiore consentito per il consumo di questo cibo. Mi viene anche in mente un vecchissimo film, non mi ricordo il titolo, in cui si parla di un ristorante nel quale si paga il tempo di permanenza seduti a tavola e non il cibo. Chissà se da qualche parte qualcuno ha pensato di aprire un ristorante così. Mandateci le vostre segnalazioni se ne avete in proposito. Intanto finisce qui questa puntata di Essere Avere. Resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 13. In replica, ve lo ricordo, il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.